Buonasera. Ecco, allora, di fronte al compito di ripercorrere una carriera poetica e letteraria, insomma, ci si sente imbarazzati. Allora, visto un po' il contesto di scrittori e musica, ho pensato di dire qualcosa su Giorgio Reilly attraverso i suoi rapporti con la musica. In quasi un abbecedario, questo libretto che uscì nel 2014, ma che Giorgio Reilly ebbe l'occasione, la possibilità, l'opportunità di vedere, in parte anche di curare, insieme a Iari Bernasconi, ci sono delle voci, dei lemmi dedicati alla M. M come Martini Plinio, M come militare, servizio militare. Non c'è invece M come musica, ma Giorgio Reilly sapeva cantare, almeno in gioventù, ma sapeva anche accompagnarsi con la chitarra. C'è più di una foto che lo documenta. E poi ricordo che in occasione del suo 80° compleanno, nel 2001, gli fece un'intervista per Cooperazione e gli chiesi anche quale fosse la sua musica preferita. E mi rispose Mozart, e in particolare il Don Giovanni. Ecco, allora c'è un interesse per la musica più alta, quella di Mozart, ma anche un interesse per certe canzonette, un interesse che è documentato anche in poesie di Sinopia, ad esempio, tipo Così piccola e fragile, canzoni degli anni 70. Ma in particolare l'interesse per l'opera lirica deve essere stato diffuso anche in casa Reilly negli anni della sua giovinezza. Basta ricordare, come ha ricordato lui stesso in un suo racconto, Autunno a Rosa Garda, raccolto in Pane e Coltello, pubblicato da Dadò nel 75, basta ricordare che il padre di Giorgio parodiava spesso, magari radendosi, un'aria del Ballo in Maschera verdiano, cantando Eri tu che mangiavi quell'anitra al posto di Eri tu che macchiavi quell'anitra. Ecco dunque l'interesse per la musica nella vita di Reilly, ma anche nella poesia di Reilly. E d'altro canto c'è un interesse dei musicisti per la poesia di Reilly. Non c'è bisogno di ricordare che non Guccini, ma Lucio Dalla, siamo più o meno in zona, nel 1992 mise in musica e interpretò alcuni testi di Spiracoli, ad esempio Calmo, limpido il mare e Kawasaki, è una delle poesie anche più divertenti di Reilly. E passando dalla musica leggera alla musica invece più seria, si può ricordare che un musicista svizzero-tedesco, Hans Ulrich Lehmann, compose nel 2001, a partire da alcuni versi di Spiracoli che erano stati tradotti in tedesco da Christoph Ferber e usciti nel volume bilingue Rückspiel, partita di ritorno, compose un pezzo di musica per baritono, clarinetto e violoncello su testi di Giorgio Reilly, in particolare le poesie Peschici. La prima esecuzione si ebbe il 25 maggio del 2001 a Soletta, in occasione degli 80 anni proprio di Giorgio Reilly. Bene, questo è un po' il quadro di insieme. Oggi vorrei, in questi pochi minuti, rileggere con voi alcuni versi, alcuni brani in prosa di Giorgio Reilly in cui c'entra la musica. Comincerei con una musica d'organo o d'armonium. Il testo è intitolato Don Giovanni e si trova in Sinopie. Non so più chi pensavo d'andar a trovare, che ramo, che dente del rastrello prenderò. Si chiedeva anche se gioia o infamia avrebbe tinto il suo giorno. Miseria ce n'era abbastanza, a cominciare da quel cavallo, nero lucido, ma scarso, intricato, come una mosca defunta nel bicchiere. Riempi bene i vuoti, si diceva, e intanto là, seduto su una piccola seggiola, le gambe allungate sul prato, mungeva il nulla, offrendo or una guancia or l'altra a un sole pallido che d'improvviso scaldava sino a fendere i fichi per le vespe. Sentiva ogni tanto alle spalle rumore di tacchi, ma non si voltava. Poi da una chiesa inghiottita dal verde, scaglie d'una toccata, d'una fuga, e una donna: «Che bella sposa, che lusso! Oh, Elvira, Elvira!» Sono le parole finali di questo testo che rinviano al titolo Don Giovanni. Donna Elvira è una delle donne amate e poi abbandonate da Don Giovanni, dal Don Giovanni mozartiano. Il secondo testo che proporrei in questa lettura è il terzo tempo di Alma Mater, cioè un trittico in prosa che è compreso nel Collo dell'Anitra del 2001. E qui abbiamo il Giorgio Relli giovane che strimpella la chitarra. Quel poco che so di chitarra me l'ha insegnato Costantino Pascalef. Basta per accompagnare le canzoni di varie contrade. Ricordo le parole e l'aria di due canzoncine di casa sua, ma niente del loro significato. Tanti anni fa, sul punto di sposarmi, sotto Pasqua, ero in Liguria, a Camogli, mi ero seduto sulla ghiaia, in riva al mare. Non c'era nessuno, poi giunsero due donne che si sedettero a pochi passi da me, con pochi uccelli, fecero picnic. Parlavano una lingua che non capivo, forse dell'est, magari bulgaro, pensai, chissà, finché su un incrocio di sorrisi non glielo chiesi. Mi risposero che erano bulgare, maritate a mercanti genovesi. Tanti anni fa in Svizzera, a Friburgo, dissi con allegria, un amico mi ha insegnato due canzonette di quando era bambino a Sofia. Ricordo ancora l'aria e le parole, ma di quel che vogliono dire, niente. Dissi le parole, che le donne mi tradussero senza difficoltà. D'ora in avanti posso cantarle con maggior piacere, dissi ringraziandole. E infatti, per qualche anno, benché non le cantassi quasi mai, ho ricordato il loro significato, ma poi me ne sono di nuovo scordato. E ormai, se stacco la chitarra appesa vicino all'Adamo di Viligelmo, bloccato con la mela in bocca e strimpellando le canticchio tra me, niente. Di nuovo non ricordo niente di quel che vogliono dire. Troppo tempo è passato. Cominciano entrambe con parole accese da I tonica, tica l'una, e l'altra zimatamina, e presto scappa via una parola lunga e ruzzolando sembra svestirsi per essere se stessa. Ma non saranno quattro parole? Prolet mila givot vorna. Il terzo testo che propongo è invece tratto dall'Orlo della vita, il volume di versi rimasto inedito e pubblicato dentro tutte le poesie uscite per Mondadori proprio 2 anni fa, giusto ieri. È il testo intitolato Cremona. Cremona è, come sapete, la capitale degli Utai. Cremona, leggevamo, non senza diletto, lo scritto sul papiro che prolunga la barba del profeta, Ecce Vir. Presto chiaro che Vir era solo la prima sillaba di Virgo. E spunta un ometto, mi chiede, gli Utai? No, rispondo, mi porge non di meno una lucente cartolina. Dicono che sia proprio lui, Antonio Stradivari, e scappa via. Anche nelle prose di Orelli, e per prose intendo i suoi racconti, c'è qualche traccia di note e di canzoni. Ad esempio in uno dei racconti di Un giorno della vita, che è stato ristampato proprio all'inizio di quest'anno da Marcos y Marcos in una collana diretta da Fabio Pusterla, in uno di questi racconti per un filino d'erba, e si cita appunto questa canzone, alcuni versi di questa canzone. Ma forse il passo più divertente che riguarda la musica nell'opera di Orelli si trova in una pagina della suite In là con gli anni, il lungo racconto bellinzonese rimasto inedito, se non per pochi estratti, pubblicati in un numero dei Quaderni Grigioni Italiani nel 2011, in occasione dei 90 anni di Giorgio Orelli. Ecco, vi vorrei leggere questo brano, che è forse il più lungo di quelli che ho scelto per questa sera. A un certo punto si parla del teatro sociale di Bellinzona. Al teatro sociale, adibito per anni a cinematografo, prima che un ricco emigrante desse il suo sangue patrizio per restaurarlo, io feci in tempo a vedere tre capolavori melodrammatici: Il barbiere di Siviglia, L'Elisir d'amore e La valigia dello zio Varisto. Quindi, accanto a due capolavori riconosciuti, un'opera meno illustre, ma diciamo di fama locale. Nel 57, infatti, venne rappresentata La valigia dello zio Varisto, libretto di Raimondo Scazziga, musica di Roberto Galfetti. La cosa interessante è che lo stesso Giorgio Orelli collaborò alla stesura del libretto della valigia dello zio Varisto. C'è qualcuno che ha memoria di questa opera? Forse no. La mimma, forse. Bene. Non più riservato ai consiglieri di Stato, il palco del governo rimase inaccessibile ai comuni cittadini. Ma io, se volevo starmene solo a vedere un film, bastava che lo dicessi al guardiano, robusto, rigolista, di eccezionale bravura, che ogni tanto, per pura simpatia, accettava di far coppia con me nelle gare della bocciofila Alba. Quindi questo teatro sociale si era trasformato in cinema della piccola capitale. Salto un pezzo e arrivo alla fine. Mi rincresce di non aver potuto assistere ad una specialissima, strampalatissima rappresentazione della Traviata. Sui giornali non era comparso niente, niente era trapelato nelle chiacchiere quotidiane. Solo all'ultimo momento, in fretta e furia, trappolarono i cittadini, affiggendo un manifesto all'ingresso del sociale e su un muro delle vicinanze. Pochissimi seppero perciò che si trattava di una Traviata mai vista, drasticamente ridotta secondo l'estro d'un armatore genovese pieno di soldi, al quale premeva fare un piacere insolito alla donna amata, una cantante lirica matura che per anni aveva invano sperato in un successo limpido, inequivocabile, grazie a una voce quasi da bambina, simile a quella di Toti dal Monte. Lui stesso, l'armatore fantasioso, mandò dall'Italia coi torpedoni una cinquantina di operai, quasi tutti metalmeccanici, pagati per assistere allo spettacolo e soprattutto applaudire la donna ad ogni aria. Gente che si divertì un mondo scolando fiaschi, divorando polli, sandwich e bignè, gridando «Gina, Gina!» «Sei la Gina nazionale! Sei superficiale!» E chissà cos'altro che non mi hanno raccontato. Gli altri cantanti non erano ovviamente astri della lirica verdiana e facevano una fatica tremenda a non ridere. E per concludere leggerei un testo che fu pubblicato per la prima volta in un volume di omaggi poetici per il cugino Giovanni Orelli. Un volume che ha un titolo che allude alla musica, Variazioni su basso ostinato. La poesia di Giorgio è intitolata montalianamente, è il montale che traduce dall'inglese di Emily Dickinson, il titolo è Lungo un suono di corno. Ed è una poesia che sarebbe poi entrata a far parte, ma senza più questo titolo, nella serie di poesie con i nipoti, raccolte nel collo dell'anitra. Ecco allora che vi leggo quest'ultima poesia. Morta, pareva morta, tra le primizie rilucenti di pioggia, e invece l'altro germano, bruna femmina rimasta sola nel quieto mattino, rapida si risente, s'alza, entra lenta nell'acqua, quasi trasmodando, s'esalta. N'esulti in una lingua che anch'essa s'arruffa, sfrisa l'anima ninfea, e in questa non obumbrata letizia giunge un bambino, mi chiede come si chiama tua sorella. Maria, dico. Maria? Lungo un suono di corno, corre a dirlo a suo nonno. Bene, passiamo alla parte giovanniana di questo incontro. Io non ho l'ardire di presentare delle osservazioni che riguardano la critica letteraria legata alla produzione di Giovanni, ma per una questione così di competenze, di campi così di cui uno magari può occuparsi in modo da garantire una certa dignità, ho cercato nell'opera di Giovanni Orelli la linguistica, cioè dove Giovanni Orelli si occupa di lingua e linguaggio. E devo dire che è abbastanza agevole trovare molti passi in quest'opera che si occupano anche a livello, come dire, metalinguistico della realtà, per esempio, della Svizzera italiana, ma poi anche è facile trovare laddove personaggi della narrativa, della prosa di Giovanni Orelli si occupino di questioni linguistiche. Quindi io imposterò, anch'io leggendo molto dall'opera di Giovanni, le mie poche osservazioni di questa sera in questo ambito, per poi concludere anch'io con un paio di omaggi alla musica in ossequio al titolo della giornata di oggi. La linguistica di Giovanni Orelli è forse il tema poco battuto, poco accostato, sono però abbastanza abbondanti, per esempio, le prese di posizione di Giovanni su questioni linguistiche e dialettologiche, penso ai numerosi articoli nei decenni sul settimanale Azione, che sono stati raccolti e indicizzati recentemente da Pietro Montorfani e che sono raccolti nella bibliografia agli archivi letterari di Berna, però c'è un certo agio anche nel trovare questo tipo di osservazione messo in bocca addirittura ai personaggi dei suoi romanzi. E quindi io comincerei anch'io con una lettura che riguarda L'anno della valanga. A un certo punto c'è questo bel sermone comizio, credo del presidente dell'assemblea comunale del villaggio che è appena stato interessato così tragicamente dalla valanga e che indice una riunione per decidere se è il caso di assecondare l'ordine di evacuazione dal paese. E questo discorso è molto linguistico e metalinguistico, ne vorrei leggere alcuni brani perché sono molto interessanti. Quasi la totalità di questo discorso si occupa di descrivere quanto questa persona sia abile nel linguaggio, seppur persona fondamentalmente dialettofona. E allora si dice, il vecchio maestro aggiunge che quel prete lì non sa neanche l'italiano, confonde un che pronome con un che congiunzione. Mia madre vi scriveva sempre con un lapis, come quando mi mandava le notizie, se ero via dalla casa, all'inizio della frase, perché aveva una scrittura leggera come il suo sguardo quando riposava, la domenica, e scriveva a me o a qualcun altro dei suoi figli, bagnava la punta del lapis con un po' di saliva, sì che la scrittura andava sempre più spegnendosi, finché si è spenta per sempre, lettere o calendario. E poi sono già andato a vedere gli scolari, a guardarli credevo di vedere le galline nella stalla, fanno segni con il lapis, via le levagnette, l'ardesia, i pennini, i loro sinistri scricchiolii, nel salire al giro dell'L o nel ritorno dal giro della G, nel vortice del lotto. E poi appunto si entra in questa assemblea comunale quando la persona che parla dice: voi sapete bene che io non sono fatto per parlare, io non so trovare le parole giuste. Mi chiedo però a che serve parlare bene se non si dice la verità. Noi siamo usciti dal bosco. Io sono vecchio e immagino che il discorso di un vecchio dice poco o niente a un giovane. Ma siamo ritornati. Perché siamo ritornati? Perché non sono capace di dirvelo. Una grida: bravo, ce n'è ancora uno che parla come parlano i vecchi. Non è vero che tu non sai parlare, come dicevi. Hai parlato molto bene, ma io più ascolto gente e più mi sembra che tutti siano capaci di parlare bene. Siamo stanchi di belle parole e noi contadini ne abbiamo ascoltate fin troppe. Ecco, per dire che gran parte di questo comizio quasi all'assemblea comunale del paese che sta per essere evacuato contiene per la maggior parte del suo procedere delle osservazioni di tipo linguistico. Poi c'è un discorso sulla lingua, anche qui vorrei un po' esemplificare, il discorso sulla lingua di Giovanni, che mi sembra richiamare una bella immagine di un linguista illustre ticinese che è Sandro Bianconi, che ha nel suo libro I due linguaggi una bella definizione del sistema, una bella definizione simbolica, metaforica del sistema sociolinguistico ticinese, dove convivono una lingua che vorrei dire vestita della festa, molto impettita, molto elegante, più sorvegliata dell'italiano medio in Italia, da una parte, e dall'altra parte il dialetto. La metafora di Sandro Bianconi è veramente molto bella, richiama un suo pomeriggio con il padre sul sagrato della chiesa di Mergoscia, che è la chiesa del paese della Valle Verzasca da dove Sandro Bianconi viene, dove si affaccia il carattere sontuoso, l'architettura sontuosa della chiesa attorno delle casupole semplici e contadine. Questa è, secondo Bianconi e secondo me, molto felicemente, un'immagine anche del panorama linguistico della Svizzera italiana, dove di fronte appunto a un linguaggio sorvegliato, elegante, ricercato, acculturato, convivono le semplicità dei vari dialetti. Tanto che Bianconi dice: due anime, due linguaggi come elementi costitutivi di questa terra lombarda, che solo molto più tardi avrei saputo coscientemente tradurre nel binomio lingua e dialetto. Nella complicata, per altri aspetti, per usare un eufemismo, introduzione di Vittorio Sereni all'Anno della Valanga, c'è una bella definizione che applica questa simbologia alla lingua narrativa, alla lingua della prosa di Giovanni Orelli. Dice Vittorio Sereni, voce monologante che si adegua e aderisce quell'attimo che basta a chi è in quel momento di scena, ma che ha sempre in riserva il correttivo, il leggero scarto giudicante, l'impercettibile avviso a chi legge o piuttosto a chi ascolta. E se ne fossi capace, qui viene la parte importante, tenterei di descrivere il mezzo, quella parlata ad oltre confine ovviamente per Sereni, quindi la nostra parlata, in cui l'italiano si raggela in forme anche più impettite, a loro modo illustri, con improvvisi inserimenti dialettali, sconfinamenti di parlata lombarda, decadimenti quasi ostentati dal modello. Ecco, io trovo che la lingua di Giovanni Orelli ben richiami questa dicotomia, questo convivere tra la semplicità del dialetto e invece un esagerato carattere impettito della lingua. Sempre in questo ambito, ecco, c'è il gioco di parole di Giovanni, che chiaramente assume materiale ticinese e lo veste anche qui di un carattere formale, di un carattere più alto. Nella raccolta Garzanti delle poesie di Giovanni Orelli ci sono due poesie dedicate ai nomi propri della Svizzera italiana. C'è uno sui nomi di luogo, che si chiama Toponomastica, tra parentesi, ticinese, e poi ce n'è uno che si chiama Nomi propri, Onomastica ticinese. Magari lo leggerò un sonetto che molti di voi, Pietro in primis, conosceranno. È un sonetto costruito con nomi di famiglia ticinesi. bianchi con neri, moro, rosa, rossi, bruni, foschini, verda, belli, buoni, lunghi con bassi, corti con altoni, grandi, piccoli, rondi, grossi, grassi, costa, pascoli, prati, laghi, fonti, poggi, poncioni, valli, bosco, sassi, fontana, dossi, pozzi, riva, fonti, campi, cima, fossati, borghi, monti, gatti, canetti, ratti, polli, galli, colombo, bo, topi, tasso, gallina, ragni, lepori, lupi, orsi, cavalli, vescovi, vavassori con vassalli, baroni, generali, re, soldati, imperatori, alfieri, papa, balli. Poi c'è, credo che sia impossibile parlare di Giovanni Aureli senza parlare di dialetto, perché il dialetto incombe anche quando Giovanni parla italiano. C'è una bella immagine di Guido Pedroietta che dice che parla anche lui di italiano impettito, dice che sprizza da ogni pur italianissimo suo poro produttiva e genuina dialettalità. Quindi un dialetto che è sotteso, che è di fondo, che sta tra le righe e che non è... C'è un'immagine simbolica dell'anno della valanga che non è dichiarato. L'anno della valanga ha solo due parole in dialetto, non so se è già stato notato dalla critica, spero di sì perché l'immagine è piuttosto significativa. Bisogna sapere che l'anno della valanga è dedicato, c'è l'epigrafe all'inizio, alla memoria di mia madre e di mio padre. E l'anno della valanga ha solo due parole in dialetto, che sono la parola padre, ume pa, a pagina 81, e la parola madre, a pagina 125, e la parola madre, a pagina 81. Probabilmente un segnale per qualcuno, non so se sia stato colto dai lettori, anche quelli qualificati. Però ecco, quello che volevo notare è che l'italiano dell'anno della valanga è ovviamente un italiano esplicitamente a base dialettale, perché chi voglia scrivere di zone rurali, chi voglia scrivere di contadini, di montagna, di valanghe, ovviamente deve in un qualche modo fare i conti col dialetto, e quindi ha molti tratti della dialettalità. Molto banalmente l'articolo determinativo davanti ai nomi propri: la Maria del Serafino, la finestra della Vanda, il Giovanni, il Pietro, il Sergei, ecco, per dire un tratto che tutti noi conosciamo abbastanza bene. Quell'uso di che era stato peraltro a livello metalinguistico già denunciato nel passo che ho letto prima, il che polivalente, l'ora che solitamente il sole scompare, la stagione che si esce volentieri, una messa che ne abbiamo bisogno. Tutta una serie di preposizioni del dialetto prestate all'italiano, è arrivata un'altra di fuori via, un mio coetaneo fuori della California, un familiare che io conosco abbastanza bene, ieri sera siamo andati fuori da questo e siamo andati fuori da quell'altro. E poi ovviamente il lessico, che è la parte più esposta, dove il sostrato dialettale si esplicita in modo più chiaro. La mia amorosa, i vecchi si segnano, si fanno il segno della croce, tranquilli, siamo noi a chiamarla chiesa, i forestieri la chiamano cappella, per dire anche un ragionamento interno esplicito su questa cosa. C'è un bel brano che è in un articolo di Giovanni, ma che è una traduzione, che è una citazione dai diari di Cesare Pavese, che vorrei leggere. Il testo di Pavese, ma è citato da Giovanni in un articolo su Azione del 2003 che si intitola Dialetto sì ma quanto, dove appunto lo stesso Giovanni ragiona sull'opportunità di utilizzare il dialetto e su come utilizzarlo. Dice Pavese, il mestiere di vivere è del 52, questo è un brano del 39. Non ho scritto rifacendo il verso a Berto, che è il protagonista di Paesi tuoi, ma traducendo i suoi ruminamenti, i suoi stupori, i suoi scherni, eccetera. Come li direbbe lui se parlasse italiano? Ho solo sgrammaticato quanto sgrammaticare indicava una sprezzatura, un'involuzione, una monotonia nell'animo suo. non ho voluto far vedere come parla Berto sforzandosi di parlare italiano, che sarebbe impressionismo dialettale, ma come parlerebbe se le sue parole gli diventassero per Pentecoste italiano. Per dire appunto come l'italiano può essere implicito, come il dialetto può essere implicito nei brani in italiano. Anch'io, come Pietro, ho preparato due omaggi alla musica e sono anche qui due citazioni. Allora, la prima è il ruolo della musica nell'operazione di, potremmo quasi dire, di sdoganamento del carattere urbano della persona che, lasciato il paese colpito dalla valanga, si reca in una città del fondovalle, una città vera, e che a un certo punto frequenta un locale dove c'è quella musica e praticamente, quasi simbolicamente, attraverso il contatto, l'accostare le persone che ascoltano questa musica, questa persona assume un carattere più urbano, che poi lo porterà altrove e gli farà lasciare definitivamente il paese. La persona arriva in un locale dove gli avventori si divertono e hanno come dei cicalini, come delle piccole rane, con le quali scandiscono il tempo della musica. Credo che fosse abbastanza frequente in quegli anni, è una consuetudine che non conoscevo e che ho appreso qua. Quindi il primo omaggio alla musica è questo qui. Ora mi lascia andare per strade dove la luce dei lampioni è più fitta. Qui, dico, è il vivo della vita. Quattro giovani, poco più che ragazzi, escono da una porta ridendo. Un momento ho pensato a qualcosa come una chiesa, perché bisogna scostare un grosso sipario di cuoio, e oltrepassata una seconda soglia, più stretta, nella penombra, viene incontro fumo, ma non è incenso. La sala è grande, con nicchie d'ombra ai lati, molte donne hanno la schiena nuda, ma gli uomini sono vestiti bene di nero. Tutti accompagnano la musica con una piccola rana di latta celeste, che a schiacciarla fa cra cra cra. Un signore con il fiore rosso mi chiede se non ho la rana. La rana? Sì, sì. Sì, signore, la festa è di beneficenza, pro vittima delle valanghe, ci vuole una rana. Fa segno che aspetti lì dove mi trovo e infatti torna con una ragazza in costume, bella anche lei e sorridente, un'altra da mettere sui cataloghi. Pago in fretta, non vorrei che qualcuno riconoscesse in me una vittima delle valanghe, sia pure celibe e non contadino. Sono capaci di portarmi nel mezzo della pista, al microfono dell'orchestra, intervistarmi e, oh Dio, guardarmi e battermi le mani. Schiaccio anch'io la mia rana. Un signore dice a un signore, venga che c'è la Josiane. Ecco, l'ultimo pezzo che volevo leggere invece è un pezzo che richiama, allora, mi sembra, ecco, questa immagine che mi era molto piaciuta, bianconiana, la definirei così, dei due linguaggi, dell'alto e del basso. Questo pezzo mi ha sempre colpito per un paio di contrasti che vi si trovano, è l'episodio che tutti conoscono, credo, dell'orbo di Malvaglia, cioè un suonatore di fisarmonica che girava i paesi alpini della Svizzera italiana, tra l'altro ho avuto anche da amici delle testimonianze, per esempio in Valle di Blenio, ovviamente a casa sua, all'orbo di Malvaglia, che si accompagnava sempre con un sordo e cantavano, intrattenevano le varie comunità. Poi alla fine questo orbo girava distribuendo dei bigliettini colorati e riceveva dei soldi. Poi c'era la consuetudine che lui e il suo assistente venissero appunto accolti in una casa del paese dove pranzavano. Anche qui ho trovato queste due prospettive, già nella musica dell'Orbo di Malvaglia, che aveva una sua gerarchia, aveva delle canzoni più sempliciotte e invece delle canzoni delle mazurche più nobili. E poi alla fine venivano invitati, nell'episodio che adesso leggerò, a entrare in quello che nel paese veniva considerato un palazzo, come i palazzi sontuosi e dell'architettura nobile dell'immagine di Bianconi che ho letto prima. Il pezzo comincia quando appunto l'orbo ha raccolto i suoi soldi e viene accompagnato per andare a pranzo, accolto da una famiglia del paese. a questo a finita, beh, eravamo lì poco più che quattro gatti, io perché l'armonica a bottoni mi prende nella bocca dello stomaco, non riuscivo bene a capire come mai il nostro paese non fosse ancora stato cancellato dal loro giro, cioè dal giro dell'orbo e del sordo. L'orbo di Malvaglia tornava ad alcuni movimenti musicali minimi, non certo la celebre mazurca variata del Migliavacca, che è l'Everest dei suonatori nelle feste campestri. Sbottonava la fisa, cavava un valzerino, una polchetta, una mazurca, senza parola alcuna, in forma di grazie, grazie. E ad aiutarlo a finire arrivava dal campanile di un altro paese il suono polveroso del mezzodì. E puntuale, tornava allora la serva della signora in vacanza, che tutti gli anni, finché erano in vita, avrebbe invitato l'orbo di Malvaglia e il sordo per un desinare. Allora l'orbo, vestito tutto di nero, compreso il gilet, e il socio suo, guardinghi a braccetto, varcavano il portone intarsiato di quello che chiamavano il palazzo. Avrei voluto seguirli anche dentro il corridoio. Grazie.